Capo di omini, miseria in corda e poi in losa buli o redensi, e tu pesse redimet, osteli nonibus sine patata buelus reliqua interna, di dona et omeno la perpetua, l'allusia i coi e la recresa in piazza, amen. Na sai nence c'è chi dice, vade, mi fai slator la cucugia, i suoi propiccioca da questa puzza, ne mi respinguccia. Signor benedetto, perdonaimi, se hai preat malamenti, prearai besola da spove. Na pos propitpin, mi ven lu volta dec, mi ven. Portaimi un puol di siccia, un got di aga, che mi stia poi. Ha dato chiammi propita mi chestamo. Maria Santissima, perdonaimi, suprei, perdonaimi. Quanti sono stati i poeti d'amore in Friuli? Moltissimi certamente. Eppure uno dei componimenti più alti su questo delicatissimo tema è senza dubbio quella villotta popolare che dichiara come le pene d'amore accompagnano l'innamorato persino oltre la morte. È una villotta questa cui il popolo, creando nelle parole stupende, ha dato un motivo musicale altrettanto stupendo. Ascoltate. Se savessi sfantacinis, c'è che son sospirs d'amor, assimù si va sottiare e anchimosis in dolor. Sclopecurs, passions penosis, stanta i cursi innamorati, e avai no zove nuie, né amuri da disperati. Tutti conoscono la bonomia e la semplicità dei preti di campagna della nostra terra. Ed ecco come, nella leggenda di Presoputis, il compianto scrittore cividalese Giuseppe Marioni presenta lo zelo che anima un simpatico sacerdote di Furlania, il quale ricorre alle più elementari esemplificazioni per esortare i suoi parrocchiani a una vita morigerata. Une domenie, dopo di aver esortati i parrocchians, a tignisi lontans dai bai, fond di ogni vizi, e a fa finitinze per guadagnarsi il premio dal paradis. Ah, c'è bruzium quai fatus gnot passade, miei chiars fradis, c'è bruzium! E al predicare con tune vos musulite, plene di passion. Mi so insumiat di essi in presenze di San Pieri, denan de porte dal paradis, une biele porte, tutte da rinte d'au. Cui seso vo che ol sai svignichenti a disturbà? Al mi disela questo il ruspi con tune vos che prometteve poc di bon. C'è oleso. San Pieri benedetto, ves di scusami. Io soi un puer predi, il plevan di Rualis, e us predi fammi sapere c'è tanti sanimis de me parocchie che son a gioldi li sgloris del paradis. San Pieri al si mette sul nasi gli occhiai, e dopo di vedato un lampo ne occhiade su un libro d'aur, al si voltà viers di me e al mi dise: Cristian, o podes lapa i vostri sfazzi, non le nessun di ruali scadentri. Avi lì, plen di suggestion, mi presentai allora denando al purgatorio. Un agnul, una spada di fuoco in man, agliere di sentinelle. Signor agnul, cal scusi, Par plaisir, potaresti all'informarmi c'è tanti animis di Rualis che sono cadi lui? Con plaisir, con buine maniere, l'agno dal consultà un libri un po' più grandi che dal paradis, e dopo un disminus di lavoro di Rualis non ci ha notato nessun. Du la saranno in alore, o borbote instupidita sentì che schiampanis, col provi avvio di talumpiar. Talumpiar, talumpiar, capiso, miei chiars parotians, che i di Rualis o pensi e andiesi dunce duce c'è dagli au. Squintiat, vie la ual, culis giambis che mi tremavin, col cur che mi bateve, col chiaf che mi bulive tanti lapignate dai pasui, mi presenti sul portonat da lunfiar. Un demoni brut, pies di un orcul, con la coda di spinis, cui voi color di che dal cius, e cal butave fuche flamis pur debociate, al faseve la white. Un tuff di cial, une puce di solfar, di catramme di chiar brusinade, e venive fur da quel brucionder. Signor diaul, o sarei saprealu di savemi di presapò, c'è tanti che di Rualis che son cadi lui. Il demonio, al deun errugnade, al clamacunt un civil un suo compagno, e insieme si metterin a voltare gli spaginis di un librat neri, spor e gran tante un schialà. Dopo dos oris, che amico spietavi in pista che puce, e con che il chialt mi son parudis dos zornadis, il demonio al disè. Di Rualis, tal mio stabiliment, non de che tre in cure. Voleso sapere cui che son? A malapena, che non vuoi conosci il non di che disgraziati. O hai borbotato tra i denti. Piuttosto che mi direzzi di la copestiatà che gli altri. Lontan, lontan di ca barbe. Bisogna che ci amminai su nevore, che vai sa ciriu, 300.000 misflu in sotto. Orrestai sberlufi. Il cur mi sanganava. 300.000 misplu in sotti c'è dagli au. Veso capito, miei chiars fedei. Veso capito. Vi ho deso du la che strisini i vizis, i bai, i teatros, gli smodis, se non si fa spinitinze sul serio. Nanche il diau non lul savendi che i di Rualis, tan sporche che han la coscienza. Pinitinze, iul, pinitinze. Scrivendo in friulano, i nostri scrittori hanno implicitamente dimostrato il loro vivissimo amore per la propria terra. Ma vi sono pagine in cui tale amore si fa esplicito, come in questo testamento dell'autrice recentemente scomparsa della notissima Ciampanis di Savi de Sere, la poetessa Francesca Nimis Loi, che, sentendo la morte approssimarsi, lascia in eredità ai friulani il suo cuore. Vue o mi soi pensade, già che l'età diotante e gli propit rivade, di scrivi sul momento dos ris di testamento. Non hai mai tignut nevore all'interesse, tant cul poc e cul trop si vivi stess. Di bet con me sicur non partarai, intanto iu dopri finco restarai. Po che i che vanti e sarai là de vie, ius partiran miei fis in armonie. Ma il testamento altrate savares nome robis di cur e no di be. Lassi ogni mio pensir e dut la fiet a vo furlans e al friul benedet. Astetiere d'amor, biele ridin e degne in verità della soin. Int che feve le poc, ame il lavor, ame la patrie e cognos ben l'onor. Tiere che ten squindude la magie di leanus duc quante so poesie. I lassi vos di fortune, di pas, e i vos sincirs e son simpli scoltas. Quanti olarai a spas di stele in stele e ovvio darai lontan lattiere biele, io bussant al Signor la sante man benedis, oi dirai, ogni furlan. È stata questa una prima trascelta di prose e di poesie friulane. Così faremo anche in trasmissioni future, sino a giungere ai giovani, a coloro che al friulano danno nuovo volto e vigore. Siamo certi che i nostri fratelli emigrati accoglieranno con gioia queste letture. È il Friuli che le invia con le espressioni più alte della sua civiltà, con la voce della loro, della nostra madrelingua. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 67ª trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ermete Pellizzari e Dino Menichini, dizioni di Ottavio Valerio.